Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Denunciata a piede libero per omicidio stradale, lesioni plurime gravissime, omissione di soccorso, la 52enne che ieri ha investito 4 ciclisti sull'Aurelia a Roma, uccidendone uno, poi si è data la fuga. Primo caso nella capitale a 24 ore dall'entrata in vigore della legge. Quando stava ormai per essere rintracciata, si è costituita. Ai test di droga e alcol è risultata negativa, ma rischia una condanna pesantissima, 5 anni di carcere e l'aggravante della fuga che aumenta la pena da un terzo a due terzi. Giorni fa parlammo dell'omicidio stradale e ci furono tantissimi interventi, richieste da parte dei ciclisti. I ciclisti sono una categoria di utenti della strada molto particolare. Sono persone che in realtà occupano poco spazio rispetto all'automobile. Voi immaginate quando vedete delle auto incolonnate, ognuna di quelle scatole di metallo, di vetro, di gomma, di vari componenti contiene una persona. Il volume occupato dalla massa del mezzo è infinitamente più grande rispetto alla persona che sta dentro. Il ciclista occupa molto meno spazio. Il ciclista in realtà è molto più discreto sulla strada. Il ciclista in realtà non produce inquinamento. Il ciclista però crea dei problemi agli automobilisti. Ciclisti e automobilisti, per il volume, per la organizzazione oggi del nostro traffico, sia sulle strade urbane che sulle strade consolari extraurbane, comincia a essere un vero problema. Il ciclista non rinuncia al suo possesso delle strade. Il ciclista, ormai soprattutto il ciclista la domenica, una persona che usa la bicicletta non per necessità primaria di spostamento, come poteva essere al tempo del cinema neorealista italiano, in cui si rubavano le biciclette perché la bicicletta era l'oggetto indispensabile per poter lavorare. No, oggi il ciclista è variegatamente una persona molto sportiva, che ama la bicicletta, ama usare la bicicletta per il senso di libertà, di illimitatezza che dà. Prendere una bicicletta, pedalare, riuscire a muoversi senza consumare nulla, se non il proprio sudore e la propria forza muscolare, è una bellissima sensazione. Potersi spostare con un mezzo leggero che uno prende, si porta sulle spalle, piega, può mettere nella metropolitana. E qui già entriamo nella seconda fase dei ciclisti, i ciclisti urbani. È una generazione recente, una generazione antitetica rispetto all'umarel con la bicicletta, che con la pompa sotto la canna e con la borsetta con dentro la colazione che va al lavoro, che l'abbiamo visti fino a metà degli anni 60, quando poi hanno cominciato le utilitarie a soppiantare le biciclette. Oggi il ciclista urbano è una persona fortemente ideologicamente sicura del fatto che ha un diritto da conquistare, quello di vivere la città con la propria bicicletta, e non si spiega perché non vadano tutti in bicicletta, perché le città sarebbero silenziose, bellissime, sarebbero tutti allegri. Questa mattina mi sono sentito strombazzare dietro una signora inviperita, semplicemente perché rallentavo perché c'era una fila davanti, era già arrabbiatissima, alle 8:30 era velenosa e mi riempiva di veleno, e sono arrivato al lavoro intriso del veleno di questa signora. Beh, queste due realtà non possono convivere. Gli automobilisti non cedono le città, gli automobilisti vedono i ciclisti come una sorta di orda ideologica, un po' come i carnivori vedono i vegani, nemici del progresso, nemici dell'attualità. I ciclisti vedono gli automobilisti in maniera variegatamente ideologica, fino alle punte estreme, tipo i flash mob, le manifestazioni in cui vanno tutti pianissimi e bloccano il traffico delle città per dimostrare che nelle città si può vivere diversamente. Qual è poi il luogo in cui si consuma la parte più cruenta di questa battaglia? Poi sono le strade. Vedete, poi ogni tanto i ciclisti vengono travolti dagli automobilisti. E c'è la risposta. Oggi leggo su Repubblica una pagina intera. I sindaci cominciano a vedere i ciclisti come nemici della libera circolazione. In particolare alcuni sindaci, sia dal nord al sud, ma in particolare nella zona del Veneto, dei Colli Eugani, cominciano a fare multe ai ciclisti, perché dice, i ciclisti vanno tutti in maniera irregolare sulle strade, non stanno in coda ma stanno in gruppo, creano dei problemi al traffico, li fermiamo per far loro le multe, non hanno i documenti. Insomma, sono quasi dei ribelli, ormai sono visti come dei corsari della strada. Com'è possibile uscire? Esiste un'equazione per uscire da questo dilemma in modo che ognuno abbia diritto di vivere tranquillamente le proprie strade? Non so se sia possibile, ne parliamo oggi. 800 24 00 24. Melog. Cronache meridiane. Le infrazioni che più frequentemente vengono commesse dai ciclisti sono quelle del transitare in senso vietato oppure transitare sul marciapiede, facendo così poi arrecano un forte disagio, specie alle categorie più deboli, agli anziani. C'è chi gira, pedala telefonando, c'è chi addirittura scrive messaggi in bicicletta, incredibile ma vero, e c'è chi indossa le cuffie e quindi vive completamente avulso dalla realtà che lo circonda, e questo è estremamente pericoloso oltretutto. La sanzione è particolarmente pesante, visto come lo chiedeva, sono 160 euro, nessuna detrazione di punti patente in questo caso, però direi che non vale la pena di rischiare. Questa è la dichiarazione di un comandante dei vigili di una città italiana, ma vale per tutte le città, per tutti i luoghi. Dal punto di vista del vigile, i ciclisti sono indisciplinati, non osservano le regole. Potrei aggiungere quello che mi sento dire anch'io continuamente: salgono sui marciapiedi, vanno contromano, a volte mettono la cuffietta, non è il mio caso, e quindi sono completamente avulsi dal traffico. Invece di andare incolonnati, quando sono tanti vanno uno fianco all'altro, è come se fosse Delia Scala in bellezza in bicicletta, chiacchierano, e questo naturalmente dà fastidio. Mi domando, ma un autotreno non occupa lo stesso spazio che tre ciclisti messi affiancati? Non voglio sembrare dalla parte dei ciclisti, perché non sono dalla parte dei ciclisti, non sono dalla parte di nessuno, vado in bicicletta quando posso, come posso, la domenica con grande fatica sulle poche maltenute piste ciclabili di Roma, provo ad andare anche al centro di Roma che è pieno di sanpietrini, rischio tanto, mi suonano, l'ho anche scritto, ho avuto dispute con gli autobus, quelli a due piani, quelli dei turisti, quelli che vanno al Vaticano, c'è stato un tentativo di linciaggio di me e di mio figlio, semplicemente perché mi schiacciavano contro il marciapiede, cioè, ma stateci attenti, scese un signore arrabbiatissimo, già lo raccontai, e lessi proprio negli occhi di questa persona, non so, come fosse l'odio razziale, una persona che ti odiava solo per il fatto che stavi in bicicletta, non lo conoscevo, non gli avevo fatto nulla, odiava il fatto che lui con quell'autobus a due piani si sentiva invaso nella sua libertà perché io stavo in bicicletta. Vedo anche molte volte ciclisti che in realtà mi rallentano la strada, creano problemi, danno l'idea che comunque c'è qualcosa di precario, qualcosa di pericoloso. Uno pensa se soltanto un attimo, ci si distrae solo un secondo, che fine fanno questi? Enzo, buongiorno. Buongiorno. Niente, premessa, io faccio 40.000 km all'anno da tempo e sono anche un ciclista sportivo. Quello che volevo dire è solo questo, che noi con la bicicletta da corsa non possiamo andare sulla ciclabile, perché è diventata spazio per i pedoni e per chi va uno all'ora, e io uno all'ora non vado. L'unica, il rispetto, cioè i ciclisti regole, della domenica vanno sulla ciclabile, vanno troppo piano per la pista ciclabile. Per forza, perché io vado in bicicletta da corsa al minimo vado a 30 all'ora. Ma scusi, adesso non voglio dire, ma una pista ciclabile attraversa una città, c'è un passaggio pedonale ogni 20 metri a volte, ci sono i semafori, non mi pare 30 all'ora, no, appunto, è la velocità della pista ciclabile. Sì, noi ciclisti sportivi non possiamo usarla, questo è il punto. Ah, ecco, dovreste avere una specie di circuito per correre, ecco, no, questo. Ma no, va bene la strada normale, l'unico problema, fermo restando il rispetto delle regole, del traffico, tutto quello che si vuole, però il problema che abbiamo noi è che se io davanti all'improvviso a 30 all'ora mi trovo una buca, io devo scartare, tutto lì. L'automobilista, visto che io faccio 40.000 km all'anno e conosco le esigenze del ciclista, come da ciclista conosco le esigenze dell'automobilista. Ecco, gli automobilisti arrivano a 100 all'ora, a 2 centimetri e poi... quindi, diciamo, il rispetto deve essere... Sì, ma qual è la soluzione? Enzo, visto che lei sta da entrambe le parti, esiste una vera soluzione? Norme, regolamenti? Ho letto di un progetto l'altro giorno, vogliono fare una pista ciclabile lungo tutte le coste italiane. Bellissimo, ma voglio vedere come, dove, quando. Che costeggia tutte le coste, sulla battigia d'Italia, una pista ciclabile per tutto lo stivale. Ma guardi, io vivo a Milano, no? Ecco, le posso dire... Beh, Milano si cammina in bicicletta, Milano si va in bicicletta, una città ciclabile. Sì, ma la pista ciclabile, se lei gira, penso che lo faccia, se lei gira non c'è nessuno. Ci sono due vecchietti che vanno due all'ora, se no quelli, i pedoni, perché sono più sicuri, non so cosa dire del perché, comunque vanno lì. Fatto sta che noi sportivi purtroppo non possiamo... Sì, lei è un'esigenza più, lei è l'esigenza di praticare uno sport. che è una delle categorie dei ciclisti. Esistono anche ciclisti che con attitudini meno agonistiche gli piace andare in bicicletta, perché è bello. Leggo qualche dato preso proprio dalla pagina di Repubblica di oggi. Nel 2013 ci sono stati 273 ciclisti morti in incidenti stradali. Scusate, nel 2014 273 ciclisti morti in incidenti stradali. E nel 2014 feriti 16.994, quindi 17.000 ciclisti sono stati feriti. Poi non è detto che tutti vadano a denunciare l'incidente, cadono, si rialzano, smadonnano un po' e riprendono a pedalare. Giuseppe. Sì, buongiorno. Buongiorno, ascolti, io volevo un po' sgombrare subito il campo dall'idea che i ciclisti sono spesso delle vittime. Io sono ciclista anch'io, vado tuttora in bicicletta e io telefono la Carrara, le nostre zone sono belle per camminare e tutto quanto, però volevo un po' così richiamare l'attenzione di questi ciclisti che ci stanno ascoltando, dicendo che spesso sono maleducati e irrispettosi anche degli altri ciclisti, perché quando loro vanno in gruppo di 50-60 persone si sentono effettivamente padroni della strada, passano col rosso senza stare a guardare, chiudono la strada ai ciclisti che vanno un po' più piano di loro, magari 2 o 3 chilometri, perché si sentono tutti in competizione. Allora, fermo questo punto del comportamento dei ciclisti che vanno in gruppo e del comportamento dei ciclisti, diciamo, che dovrebbero avere... Non generalizziamo, di alcune categorie di ciclisti sono quelli, ma sono gli umarelle che si sentono una volta a settimana. Un perché è un po' più stanco, si trova sorpassato a destra, a sinistra, chiuso, sì. Che deve, quando arrivano questi qui che sembrano colori professionisti del Giro d'Italia, dovrebbe accostarsi umilmente a destra e dire basta, io non ci vado più perché passa il Giro d'Italia. E di questi figuralo, ce ne sono tanti, perché io mi ci metto, anch'io sono un ciclista anch'io, però sono rispettoso quando posso delle regole della strada. Io quando posso cammino a destra e quando vado via in compagnia cerchiamo tutti di andare in fila indiana, perché ci rendiamo conto che diamo noia agli automobilisti. Però d'altra parte spesso non è facile camminare in fila indiana e a bordo strada, come dice il codice, mantenendo strettamente la destra, perché se lei si fa un giro per le città, tutte le città, vedrà che i margini destri della strada, quelli più vicini al marciapiede, sono tutti sconnessi e pieni di buchi, come quasi l'amministrazione non gli interessasse dei ciclisti. È uno sbaglio anche qua, perché io posso capire e posso dire, te ciclista devi rispettare quelle che sono le norme, però io amministrazione ti devo mettere in condizioni di rispettarle. Le faccio un altro esempio, città come Roma ci sono le macchine in doppia fila, terza fila, quarta fila, bisogna per forza spostarsi al centro della carreggiata, dove passi con la bicicletta altrimenti, è molto difficile. Raffaella, buongiorno. Raffaella. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, io sto chiamando da Udine. E sono napoletana, io da sempre, dall'età dell'adolescenza, sono un amante della bicicletta in tutte le sue versioni. Ho una bici da corsa, tutta la mia solidarietà ai due signori che hanno chiamato prima, li capisco assolutamente, e sono un amante del fuoristrada, della mountain bike. Ho fatto anni in cui andavo a lavorare a 10 km di distanza quasi tutti i giorni in bicicletta. E è uno stile di vita, è uno stile di vita che non è né apprezzato, né capito né compreso. Siamo considerati forse anche un po' matti, secondo me, dagli altri. Però quello di alzarsi un'ora in più, un'ora prima, prepararsi e andare a lavorare in bicicletta è considerata magari una follia, però per chi è amante dell'aria aperta non è. È una cosa impareggiabile. Arrivare al lavoro, sentirsi piena di adrenalina, come sentirsi di aver bevuto 7 caffè, ed avere forte energia fisica, contentezza. Contentezza poi di ritornare sui pedali dopo l'orario di lavoro per buttare giù tutto lo stress accumulato nelle ore di lavoro. La ringrazio, nel senso che le 3-4 persone che hanno telefonato hanno concretizzato e dimostrato quello che avevo io in parte teorizzato. Hanno rappresentato alcune categorie del ciclismo. L'ultima signora, per lei la bicicletta è qualcosa di terapeutico, è quasi una religione, è qualcosa che ti fa sentire libero, è qualcosa che è una sfida alla folle avvelenamento quotidiano nelle strade, è una maniera per scaricare l'adrenalina, è una maniera per sentirsi bene. L'altro signore vuol fare lo sport ma non vuole essere competitivo, altri ancora vogliono il diritto di poter correre in bicicletta quanto vogliono. Vi leggo qualche sms che mi sta arrivando. Dice: in alcuni paesi le biciclette hanno la targa, sono tenute a rispettare il codice stradale, negli Stati Uniti è obbligatorio il casco in bicicletta. Continuo altri messaggi: le biciclette hanno la targa, A Monaco di Baviera posso assicurare che le piste ciclabili sono rigorosamente rispettate sia dagli automobilisti che dai ciclisti. Voglio dire che il ciclista sportivo e non si sogna nemmeno di andare sulle strade normali, ma altrettanto il pedone non si sogna di camminare in una pista ciclabile. Lo so, questo è un antico problema. Sembra che le leggi e i regolamenti alle nostre latitudini siano impraticabili. Michelangelo Alimenti, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti. Michelangelo Alimenti è esponente del gruppo Salva Ciclisti di Roma, ha organizzato la pedalata di gruppo dimostrativa sull'Aurelia sabato passato, usa quotidianamente la bicicletta a Roma. Mi conferma, poi questo è il suo punto di vista, che più o meno abbiamo visto rappresentate molte delle categorie di ciclisti nelle prime 3-4 telefonate arrivate spontaneamente? Sì, ne abbiamo sentite rappresentate diverse, come al solito nella diversità ognuno pensa di avere la ragione. O di essere rappresentativo lui della categoria intera, ecco, che non è così. Non ho capito. O di essere lui rappresentativo dell'intera categoria. Sì, infatti. Poi, come diceva lei 2 minuti fa, il problema è sempre che alle latitudini mediterranee abbiamo uno strano concetto di norme e normative. E questo vale per gli automobilisti come per i ciclisti come per la buona parte di noi italiani. Nello specifico, se posso permettermi, se no, no, ti sto aspettando. Sì. Nello specifico, credo che il vero problema sorga all'interno del codice della strada. O meglio, le spiego perché. Il codice della strada è scritto chiaramente e riporta delle norme di comportamento, delle categorie di veicoli, delle categorie di strade e quant'altro. Le modifiche che negli anni si sono succedute del codice della strada hanno sempre messo mano a mano maggiormente l'attenzione sulle automobili, spostando le biciclette e i pedoni nella categoria marginale. Però continuando a a mantenerle all'interno della strada. E, forse non sono stato chiaro. No, io ho capito. Lei dice sì, andare sulla strada Aurelia, che è una strada consolare pericolosissima anche andandoci in macchina in bicicletta, è chiaramente un rischio. Ma io ciclista dico, ma se il codice permette di andarci, perché non devo andarci? Per me è una bella pista, si passa in mezzo ai pini, si va verso il mare, si passa in mezzo zone bellissime. Due sono le cose: o proibite queste strade ai ciclisti e ce ne faremo una ragione, se noi ci possiamo andare bisogna che abbiamo diritto di andarci come gli altri, o sbaglio? Se posso, no, o meglio, io non sono per la proibizione, sono per il rispetto del codice della strada. Se il codice della strada venisse rispettato per come è scritto, perché tutti in Italia si riempiono della bocca del rispetto del codice della strada, l'automobilista dice voi ciclisti fate questo, e spesso i ciclisti rispondono ma perché voi fate quest'altro. Io la vedo molto più semplice: nel rispetto del codice della strada la possibilità di incidente sciama, e questo è un dato di fatto. Perché? È un dato di fatto perché negli altri paesi dove il codice della strada è maggiormente rispettato, a prescindere dalla presenza o meno di infrastrutture ciclabili, parlo di semplice codice della strada, il numero di incidenti stradali crolla a percentuali molto inferiori rispetto all'Italia. In Europa noi abbiamo 26.000 morti per incidentalità stradali, 3.500 sono tutti in Italia. Questo vuol dire che in Italia abbiamo comportamenti sulla strada, tutti quanti, che sono in contravvenzione al codice della strada. Cioè, è una percentuale alta rispetto alla media europea. È una percentuale tripla rispetto... Tre volte quello che accade in generale, mediamente, in tutti gli altri stati. Noi abbiamo più di un decimo dei morti europei su un'Europa a 25 stati. Allora, fermo un attimo, devo dare la linea alle informazioni della borsa. Prenda fiato un attimo e poi riprendiamo. Ci dice Alimenti che se ci fosse un rispetto da entrambe le parti del codice della strada ci sarebbero meno problemi, non staremmo qui a parlare. Vediamo esattamente in che termini questo pensiero può essere sviluppato. Tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. Un'auto L'automobilista ubriaco alla guida ha investito e ucciso un ciclista, ne ha investiti altri tre, poi ha proseguito la sua corsa, infine è stato arrestato dai carabinieri. Una volta sottoposto all'etilotest è risultato positivo. L'incidente questa mattina, la macchina l'uomo ha perso il controllo della Mercedes dopo una curva sulla statale 18 e ha quindi travolto il gruppo di ciclisti. Erano in 10, 7 sono morti sul colpo, altri 3 sono rimasti gravemente feriti. 4 si sono salvati perché erano tornati a casa prima di trovarsi lì in quel momento. Tutti facevano parte di un gruppo sportivo di San Biase, uno dei 3 quartieri di Lamezia Terme, che ogni domenica 800240024, cerchiamo di capire se esista un punto di convergenza degli interessi dei ciclisti e degli interessi degli automobilisti di poter disporre delle strade urbane, extraurbane, a loro piacimento, nel pieno rispetto comunque del codice della strada. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Grazie prima di tutto per questa occasione di parlare di codice della strada in una maniera, diciamo così, pagata anche. Dunque, io sono un ciclista urbano e porto anche la macchina naturalmente. Quando vado in giro con la macchina, rispettare i limiti di velocità è un'impresa, nel senso che ci sono quelli dietro che ti lampeggiano, che ti vogliono salire sopra perché stai andando a 50 su una strada che c'è scritto 50, per loro è una bestemmia, no? Ti trattano da... Questa era però l'altra trasmissione, avevamo detto nella trasmissione precedente. Sì, però, sì. Esatto, poi come ciclista, voglio dire, io vado in giro con il giubbotto giallo, il coso, il cappelletto, l'elmetto tutti i giorni. Col casco. Col casco, esattamente. Però andare in giro per Roma rispettando poi certe regole, cioè quella di stare troppo accostato a destra, sai benissimo pure tu, scusa che ti do... No, tu, ma figurati, è impossibile. È impossibile, perché non solo le macchine che sono parcheggiate in doppia fila, ma certe volte ci sono delle strade che perché parcheggio permesso a destra e a sinistra, tu con la bicicletta non c'hai possibilità. Non esiste di andare, il bordo della strada, certo, non esiste. Capito? Per cui poi ci sono quelli che aprono lo sportello, e allora tu devi pensare pure a quelli che aprono lo sportello, cioè non puoi stare a ridosso delle macchine, per cui le rotaie dei tram, eccetera, eccetera. Capito? Cioè, una volta una signora mi stava mettendo sotto sulle rotaie perché pretendeva che io dovevo andare sopra la corsia dei tram e non con la macchina e non dovevo andare sulla strada. Ah, pensava che le rotaie erano, diciamo, sì, esatto, capito? Cioè, chi deve andare lì deve precise andare per la ruota della bicicletta, capito? Cioè, questo è più o meno l'idea che abbiamo. Poi a Roma, sai, c'era un giocattolo che avevo da bambino, che c'erano dei ciclisti su una cosa di latta che andavano su una pistina, ecco, come i cavallini, sì, esattamente la stessa cosa. Oppure quelli che ti prendono in giro, io vado a lavorare con la bicicletta e ci sono quelli che dietro con la macchina che dice: io devo andare a lavorare, tu ti stai divertendo, capito? Che mi sto divertendo? Sto andando in bicicletta al lavoro, capito? Diciamo, vabbè, che se lei parla di Roma non è certo la città più adatta per andare in bicicletta, anche se devo dire, i giorni di festa è fantastico andare in bicicletta per Roma perché è uno spettacolo, però è molto difficile. Gabriele. Sì, salve. Io volevo fare un attimino chiarezza sulla fila indiana dei ciclisti o doppia fila. Sì. Io ho corso in bicicletta circa 20 anni come professionista e adesso guido i pullman in tutta Italia, quindi posso essere l'ago della bilancia. È passato al nemico. In teoria bisognerebbe avere rispetto uno degli altri e nessuno è nemico, nessuno ha ragione e nessuno ha torto. Bisogna cercare di convivere tutti quanti. Quello che vorrei spiegare è che quando io guido il pullman e ho un gruppo di 10 corridori, di atleti o persone che vanno a spasso, se sono in fila indiana io impiego quasi un chilometro per sorpassare 10 biciclette in fila. Se sono accoppiate impiego la metà del tempo. Perché gli automobilisti vogliono i corridori in fila indiana o chi va a spasso? Ma perché il codice dica questo? Anch'io lo pensavo, dico, rispetto a un pullman ce ne stanno 5 di ciclisti accoppiati, appaiati, però evidentemente il codice bisogna andare in fila indiana. Un codice probabilmente scritto quando ancora c'erano, il rapporto era 10 biciclette e mezza automobile. Fermiamoci un attimo. Moreno Valdisolo, sindaco di Teolo, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lei è tra i sindaci che sta facendo azioni concrete contro i ciclisti. io ho cercato, soprattutto in questo cambio di stagione dove abbiamo molti ciclisti che arrivano nel nostro territorio collinare, siamo all'interno di un parco regionale, quindi un territorio che si presta alla visita ciclistica, soprattutto del sabato e la domenica, ho voluto porre attenzione su un fenomeno e su una criticità che è sempre più evidente, appunto quello dell'indisciplina di questi dei ciclisti che arrivano nelle nostre strade, soprattutto nei tratti in salita. Noi abbiamo dei due paesi che sono collegati tra loro con dei tratti in salita e abbiamo, diciamo, delle difficoltà evidenti. È la zona dei Colli Euganei dove sta lei. La zona dei Colli Euganei. Quindi è un bellissimo, un paesaggio fantastico, però in salita, quando cominciano a pedalare i ciclisti, è chiaro. E il problema è che quando si mettono appaiati, non rispettando la fila indiana, comincia ad essere veramente un problema. Perché è insorpassabile. Ed io torno al concetto che diceva l'amico poc'anzi. Non è una questione che si riesce a sorpassare meglio e più velocemente qualora i ciclisti procedano proprio non in fila indiana. Il problema è che bisogna semplicemente rispettare l'articolo 182 del codice della strada, che dice appunto che i ciclisti devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano. Punto semplice, quindi io penso che sia opportuno che, così come qua si va a sanzionare l'automobilista che non indossa le cinture piuttosto che infrange i limiti di velocità, così dovremmo fare anche nei confronti dei ciclisti. Che però sindaco, mi spieghi una cosa, visto che lei conosce il problema in una dimensione molto particolare, però spalmabile in tutto il territorio. Se i ciclisti osservassero il codice, cioè pedalassero in fila indiana, si risolverebbe comunque il problema? Cioè tollererebbero gli automobilisti comunque, c'è sempre comunque uno in bicicletta che non è proprio facilissimo da sorpassare perché bisogna fare molta attenzione, richiede un rallentamento comunque. L'attenzione da parte dell'automobilista deve essere sempre presente, quindi non dico che il problema lo andiamo a risolvere, dopo bisogna anche verificare e valutare qual è anche la protervia degli automobilisti, perché non tutti gli automobilisti sono magari pazienti di attendere e magari che la strada sia libera per sorpassare i ciclisti, quindi l'attenzione per chi utilizza la strada deve essere generale. Ma come fa a sanzionare i ciclisti che non hanno targa, non hanno nulla, li deve fermarli? Il problema che abbiamo verificato, la polizia locale sta affrontando proprio questo, perché non sempre è possibile risalire, non sempre i ciclisti portano con sé i documenti e non sono neanche perseguibili, perché diciamo loro non sono tenuti a fornire documenti ma semplicemente a dichiarare le generalità, quindi lì dopo si innesca tutto un problema proprio di organizzazione, perché si dovrebbe passare poi al fermo di polizia, quindi portare i ciclisti in caserma, quindi capisce adesso che i vigili perdono la giornata. Non possono arrestare tutti i ciclisti per identificarli. No, sì. No, assolutamente no, ma infatti adesso noi stiamo cercando di passare a quello che dovrebbe passare più il messaggio, quello di portare alla ragionevolezza, cercare il dialogo, cercare di persuadere queste persone, questi ciclisti, che se facciamo tutto questo è anche per venire incontro alla loro incolumità, perché di fronte a un urto, di fronte a una collisione con una macchina, sicuramente chi ne esce peggio sono proprio i ciclisti, quindi noi cerchiamo in qualche maniera di evitare che tutto questo si possa verificare. È chiaro, quello quindi che si fa più male ai ciclisti. Prima di sanzionare io vorrei cercare di persuadere i ciclisti, però non sempre è facile, cioè, ci siamo riusciti parzialmente con i motociclisti, perché ovviamente il problema ce l'abbiamo anche per i motociclisti che nelle nostre strade usano spesso certi tratti come una pista, un circuito. Però con i ciclisti veramente non è molto facile, sono un po' più tozzi, diciamo. Ci fermiamo un istante, devo ridare nuovamente a Lina, poi risentiamo naturalmente Michelangelo Alimenti, che ha più elementi per poter dire la sua rispetto a quanto ha detto il sindaco. È uno dei sindaci che oggi è stati citati su Repubblica come i sindaci multatori, però in realtà mi sembra che il suo sia un atteggiamento molto comprensivo e molto aperto al dialogo. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Nunzio, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Spenga la radio però, Nunzio. Sì. Ha detto. Allora, senta, è curiosa la situazione. Io sono fermo, io mi trovo in Sicilia e sto telefonando da Milano perché abito a Milano. Ho una casa a mare in Sicilia, sto godendo il panorama posteggiato sulla corsia destra, attenzione che non è la viabilità, è proprio di posteggio, mi entra dietro la macchina, mi entra dietro un ciclista in salita, andava quasi a 40 all'ora, con un bel casco a punta. A 40 all'ora in salita? Fantozzi, sì, che aveva preso salita, la bomba. Ma siccome lui non mi ha visto, perché non mi vede? Perché andando in salita a forte velocità, che era passato un suo compagno prima, evidentemente voleva raggiungere quello che era primo. E quindi che le è successo? Lui non mi ha detto, io grido, questo signore non mi sente, non mi vede, e si infila dentro la macchina dal cruscotto di dietro, dalla porta di dietro. Esattamente come accade nel film di Fantozzi durante la corsa ciclistica. No, ma quale Fantozzi? Questa è realtà, Fantozzi sì. È una finzione. No, lo stesso episodio però. Si è tagliato sullo spoiler che c'è in alto dove ci sono le luci di frenata, si è tagliato il naso. E ho chiamato ambulanze, polizia, i carabinieri, tutto, l'abbiamo trasportato. Però, scusi, lei a tutti gli effetti è stato tamponato da un ciclista? Sì, così è. Così e quindi è colpa del ciclista, non è colpa sua? Sì, ma aspetti un momentino. Allora, a questo discorso la mia domanda è una. Ma questi hanno assicurazione o no? Perché mi hanno dato l'assicurazione, io ho denunciato, mi hanno dato il coso di colpa. Ma che colpa ne ho io se quello si infila di dietro, dove io sono posteggiato, dove c'è la corsia di emergenza? Si tranquillizza, tranquillizzi, mi rendo conto. Cosa guardi, corre nella corsia? Lo chiediamo subito a un esperto. Mi rendo conto, essere infilato da dietro da un ciclista, quando uno tranquillamente sta nella piazzola, è un'esperienza traumatica. Michelangelo Alimenti, questo signore è un caso paradossale, però lo riportiamo, ci ha chiamato. Esiste un'assicurazione per i ciclisti? Non è obbligatoria, immagino, naturalmente, ma in questo caso cosa deve fare questo signore? Nulla? No, nulla. Di nuovo buongiorno. Allora, l'assicurazione esiste, è possibile assicurarsi, però non è obbligatoria. Come si dice, c'è la via civile per il risarcimento dei danni, ma a prescindere questo, che è un caso paradossale, quindi 40 all'ora in salita, un bel polpaccio c'aveva. Poi bisognerebbe capire se era fermo sull'area di sosta, sulla corsia d'emergenza. Lasciamo perdere i casi i casi eccezionali. Io direi di soffermarci di aprire il ragionamento. Ecco, al sindaco cosa risponde allora? Ecco, il sindaco, infatti, era lì che, per esempio, il sindaco, mi è piaciuto il pezzo in cui ha detto che vuole invitare le persone al buon senso, però per esempio, per quanto riguarda il discorso dell'applicazione delle multe ai ciclisti, ritorno a essere d'accordo al discorso dell'applicazione del codice della strada, no? E quindi del rispetto. Il problema è che il sindaco subito parte con l'articolo 182, dimenticando totalmente l'articolo 146. È quello che norma il sorpasso. Ora, il sorpasso normato, la bicicletta è un veicolo, quindi ha diritto di stare su strada, parliamo di ciclisti che vanno non in ordine sparso, ma in fila indiana, no? Quindi occupa la sede stradale tenendosi a destra. Secondo l'articolo 148 del codice della strada, l'automobilista che sopraggiunge da dietro ha possibilità di effettuare il sorpasso nelle condizioni di buona visibilità e tutto quanto nel migliore dei casi, solamente spostandosi sulla corsia di sinistra, cioè oltre la mezzeria. E quindi io mi chiedo, è in grado il sindaco e le sue forze dell'ordine di far rispettare questa norma dagli automobilisti che superano i ciclisti? Anche perché i ciclisti viaggino in fila indiana. In una strada di salita, nel senso la vedo difficile. Il ciclista, io mi immagino da solo su quella strada, mi tengo a destra, l'automobilista dovrebbe comunque andare sulla corsia di sinistra, cioè oltre la mezzeria, nonostante io sia più lento. Ma questa è l'idiosincrasia del codice della strada, come dicevo prima, che ha spostato sempre di più l'attenzione sulla velocità automobilistica piuttosto che sulla sicurezza stradale tout court. Perché, parliamoci chiaro, sulla strada potrebbe esserci, sempre da codice della strada, il carretto tirato da animali. L'automobilista che fa? come lo sorpassa il carretto trainato da animali? È chiaro che siamo a Roma, in una città come Roma ci sono le botticelle, si vedono nel centro, perfetto, e sono abbastanza difficili. In ambito urbano il sorpasso è normato in modo diverso, rimane sempre ancorato all'articolo 148. Poi mi faccia capire, scusi, mi sembra da quello che dice lei, che noi abbiamo un codice della strada che è rimasto arcaico rispetto a alcuni mezzi di spostamento che possono sembrare arcaici, come il carro col somaro. È chiaro che è una cosa che è raro vederle ancora. La bicicletta è ancora considerata come l'arcaismo o il vecchio, quando in realtà oggi è un mezzo modernissimo. La bicicletta non è più pensata ancora come qualcosa che appartenga al passato. Questo è forse il punto sbagliato. Nei paesi civili non è più pensata come il mezzo del passato, anzi è considerata come il mezzo del futuro, tant'è che si adeguano sia dal punto di vista del codice della strada sia dal punto di vista delle infrastrutture. Il discorso qual è? Le infrastrutture sono utilissime e quasi indispensabili in ambito urbano per le strade ad altissimo scorrimento. Per la strada a basso scorrimento non servirebbe una struttura separata per la bicicletta, basterebbe il rispetto del codice della strada, che è lo stesso che, non venendo rispettato, mette a rischio i pedoni, perché lo stesso rischio che io corro da ciclista, cioè da persona che si sposta in bicicletta, lo corro da pedone nel momento in cui attraverso la strada sulle strisce e la persona non rispetta il codice della strada. Ecco, provi andare a piedi lungo la via Aurelia, poi vediamo se non rischia lo stesso in certi tratti. Sì, no, ma allora, vedi, però, la via Aurelia è nel tratto extraurbano, vanno distinti i tratti urbani e i tratti extraurbani, tant'è che, per esempio, tornando al discorso di perché sabato abbiamo scelto di pedalare lungo via Aurelia in fila indiana, ricordo in fila indiana, stando sulla destra, cioè nel massimo rispetto, perché voleva essere... Quanti eravate? Eravamo circa una quarantina, volevamo essere provocatori, ma provocatori nel rispetto del codice della strada. E cosa è successo? Com'è stato l'atteggiamento di chi transitava nell'Aurelia e va visto in 40 in fila? Il solito atteggiamento. Le corna, suonare il clacson, queste cose? Sì, gli atteggiamenti più svariati. Compreso anche chi aveva modi di attuazione. Il discorso era proprio lì, che noi, per esempio, stando a destra sulla corsia al limite, sulla linea di demarcazione tra la corsia di destra e la corsia d'emergenza, che poi neanche c'è in tutti i tratti dell'Aurelia, venivamo sfiorati dalle automobili. Ora, stando al codice della strada, quelle automobili che ci hanno sorpassato si sarebbero dovute spostare sulla corsia di sinistra ed effettuare il sorpasso, lasciando in sicurezza noi e gli altri. Il problema è che tutto ciò non è possibile per le condizioni di traffico alle quali sono soggetti. Sì, anche perché anche il sabato la via Aurelia è una via transitata, la via che va verso il mare, quindi è molto difficile che accada questo. Ci abbiamo provato, non so se ci siamo riusciti, ma qualche passo avanti quando si discute si fa sempre. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini, a domani.